Incontri di Gianfranco Fabi. Notte immortali dello Schiaccianoci di Tchaikovsky, iniziamo il nostro incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera all'ingegner Silvano Mantovani. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Sono notte molto molto dolci che ci ricordano quasi qualcosa che vola. Era scelto sì, per questo, sì, questo no, brano. Poi anche sono molto tranquille, quindi mi rilassano. Ecco, l'ingegner Silvano Mantovani è amministratore delegato di Aerea S.P.A., che è una società che, come dice il nome, si occupa forse non tanto di costruire gli aerei, ma di costruire qualcosa che li fa volare. Beh, qua c'è ben equipaggiamenti di missione, soprattutto per aerei militari. Per aerei militari, una società italiana? Italiana, totalmente privata, fatta nel 27, poi io l'ho presa metà degli anni 70. Aveva seguito il ciclo biologico della vecchia proprietà, quindi se ne stava andando con la vecchia proprietà ed è stata ripresa e riportata sul mercato diciamo internazionale, però continua a considerare l'Europa e la NATO come mercati domestici, nonostante questo non venga preso in considerazione dal nostro apparato dello Stato. Ecco, quindi una società che opera soprattutto nei confronti di commesse pubbliche, ma anche con società private. No, generalmente noi andiamo con i nostri clienti sono i costruttori di aeromobili, sia la fissa che la rotante. Quindi per noi il cliente fondamentale è il costruttore dell'aeromobile. Ho capito, quindi in questa prospettiva voi realizzate apparati appunto per aerei militari, equipaggiamenti, in cui ovviamente la dose di innovazione deve essere molto forte. Beh, diciamo che per ogni programma il traguardo, l'asticella della tecnologia è sempre innalzata, costantemente, quindi ogni prodotto si può dire advanced. C'è una generazione, la generazione successiva del prodotto, e quindi dal punto di vista ingegneristico, che è quello che mi ha travolto, è molto affascinante. Perché è ingegnere, è nato come ingegnere? Sono nato in ingegneria industriale, sono partito dal mio paesello con un po' di fatica, perché ho dovuto mantenermi gli studi, ma comunque sono uscito dal Politecnico. Quindi uscito dal Politecnico, ha cercato lavoro e ha trovato lavoro. Pensavo di finire la mia professione come direttore tecnico, perché avrei avuto un ufficio che pagavano gli altri. Io sarei stato pagato per fare il mestiere che volevo, quindi sarei stato felice. Solo che in realtà lì ci sono arrivato troppo presto e quindi poi sono andato avanti. Ecco, è andato avanti, adesso diciamo così controlla un'azienda con sì, tutto diciamo questo. L'azienda praticamente oggi come oggi della famiglia e io sono il capo famiglia. Capo famiglia, quindi anche la responsabilità anche verso i suoi successori. Certo. Ecco, oltre che amministratore delegato di una media azienda, possiamo chiamarla una media azienda. Sì, piccola media azienda, sono insomma su 30 milioni di fatturato. Però è un'azienda che sta crescendo. Ha inaugurato nei giorni scorsi un nuovo stabilimento. Sì, dunque innanzitutto si può considerare che anche in Europa il settore diciamo degli equipaggiamenti, dove un tempo ogni paese era più o meno autarchico, eravamo circa un 600 ditte. Oggi si apre anche in Europa, nonostante l'Italia non l'abbia capito, le frontiere anche per questo settore. E i bilanci di vari paesi diminuiscono e quindi, scusi l'ottimismo da parte mia, se sopravviveremo in 200-250 è grasso che cola, e io mi ci metto dentro. Ecco, quindi già sopravvivere è già un dato positivo, però appunto anche crescere, avere la forza di fare un nuovo stabilimento. Sì, perché la massa critica di sopravvivenza delle aziende, soprattutto se vogliono avere capacità progettuali, deve aumentare. Cioè se un'azienda di 150 persone poteva avere una certa sua area di vita, dovrà andare verso i 200-250 per poter adeguare la sua capacità progettuale, perché il costo di ogni prodotto tende sempre a essere più elevato. perché il livello tecnologico, certo, è sempre più raffinato. Quindi crescere è anche non solo una possibilità, ma è un dovere anche per direi di sì, è mandatorio per poter mantenere un proprio primato, una propria caratteristica. Ecco, Silvano Mantovani, l'ingegner Mantovani, è anche balzato, diciamo così, agli onori della cronaca nelle scorse settimane per aver pubblicato una pagina, si è pagato di tasca propria una pagina su Sole 24 Ore con una lettera a un amico, caro Modesto, in cui racconta non tanto la propria esperienza quanto i problemi del nostro paese. Come è venuta in mente di fare una pagina con una lettera aperta, poi indirizzata a questo suo amico Modesto, ma anche al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, insomma, a quelli che contano? Ma tutto andò così, la cosa nacque più di un anno fa, circa, dove questo amico mi aveva chiesto di mettersi due righe per capire bene, visto che c'era sempre un po' di commistione tra differenza tra produttività e competitività. E allora una sera mi sono messo lì per scrivere due righe, solo che a quel punto, ben cosciente che questo per un paese come il nostro, estremamente manufatturiero, è un problema focale. Certo. Siamo in arretriamo come paese in questa situazione, e che quindi lì a un certo punto mi sono affollato tutte le ragioni che vengono a implicare questo aspetto. E quindi da spiegare quello che è l'attività in corso e la produttività e la competitività, mi sono poi soffermato, si sono aperte le caterate, un fiume pieno di passione, di ragionamenti della vita, certo, quotidiana, che nascono poi dalla sua esperienza di imprenditore. Sono, direi, oltre che esperienza, molto spesso anche sofferenza. E dice perché il prodotto italiano è più caro, e allora le ragioni sono il credito, l'energia, la burocrazia, e appunto all'interno di questi ci sono poi altri elementi come la giungla delle leggi e così via. Quindi il sistema italiano, visto da lei, è un sistema intricato che complica la vita. Assolutamente intricato. Io facevo un ragionamento che appena finita la guerra, cioè dal 46 al 60, abbiamo ricostruito il paese, è stata un'impetuosa ricostruzione e i limiti, voi forse per mancanza di struttura, ma comunque forse per cultura, non so bene, abbiamo ricostruito il paese, il debito pubblico era del 35%, abbiamo fatto le Olimpiadi, l'autostrada del sole era già efficiente. Fatta in 6 anni. Fatta in 6 anni. Oggi la Pedemontana stiamo aspettando da 30 anni, tante altre infrastrutture, e il debito pubblico 120%. Allora sono andato a vedere, ma quali sono le cause? Abituato a non soffermarmi gli effetti, ma di andare a vedere le cause, alla fine ho redatto questa lettera, che ho mandato un amico, che poi è rimasta lì, e in questi ultimi tempi, di fronte a, non so, speranza di cambiamento, ho ritenuto di pubblicarle e quindi di dare un contributo. Perché sono sempre convinto che uno non deve mai pensare di vivere in una società solo per se stesso, ma certo, è interconnesso con tutta la società in cui vive, e quindi se la società va bene, vive bene anche lui, se lo stava male, lui potrà anche vivere bene, ma fa fatica. Certo, fa fatica, quindi in questa prospettiva la sua missione non è solo quello di condurre bene l'impresa, ma anche creare le condizioni perché la sua impresa, ma così come le altre, possa crescere. Certo. Ed è possibile. Ma, questa è anche una questione di cultura personale, di educazione. In famiglia non siamo mai stati abituati a pensare solo per noi stessi. Forse bisogna recuperare anche adesso quello spirito, lei parlava degli anni del dopoguerra. Sì, dove ciascuno dal vicino di casa che conosceva, c'era un certo collegamento con tutti. Oggi siamo tutti individualisti e molto spesso troppo egoisti. Incontri. ancora con le note dello schiaccianoci, sembra qualcosa che voglia spiccare il volo. Riprendiamo il nostro incontro con l'ingegner Silvano Mantovani, amministratore delegato di Aerea, è una società italiana, una media impresa italiana specializzata nelle componenti per l'aeronautica, soprattutto sul fronte delle installazioni dell'aeronautica militare, una società in crescita, possiamo dire, una società che va bene, ingegner Mantovani. Ma sì, il nostro livello tecnologico, oggi come oggi, noi tutto sommato lavoriamo su domanda del cliente, che non è poco. Quindi più che andare alla ricerca del cliente, molto spesso ci cercano, e quindi questo ci consente anche di avere un... Ecco, ci fa un esempio di un vostro prodotto, che ovviamente è qualcosa che aiuta gli aerei a funzionare. Beh, più appunto ci sono gli equipaggiamenti di funzione, che sono pompe, carburante, eccetera, gli equipaggiamenti di missione, che considerano l'aereo una semplice piattaforma senza delle quali l'aereo non serve, e quindi soprattutto per quello che riguarda gli aerei di tipo militare, evidentemente. Quindi. Ecco, in questa posizione, ecco, è una vostra azienda ovviamente business to business, non è conosciuta dal grande pubblico, e direi che è una realtà che però accomuna molte aziende in Italia che fanno componenti anche nel settore automobilistico, per esempio. Sì, ma beh, quello, i freni di Brembo sono, credo, certo, l'emblema di tutto questo, e quando uno si è dedicato con passione, alla fine ha raggiunto, perché è capace, perché è fortunato, per le circostanze, mettiamo tutti gli eventi della vita, primeggia e alla fine diventa un punto di riferimento. Quindi vale anche per il sistema automobilistico, in questo caso, come può valere per altri settori. Ecco, ma possiamo considerare le eccezioni in un'Italia in cui si dice spesso l'innovazione è difficile, complicata, non si riesce a fare innovazione? Ma in tutto il mondo possono sempre esistere persone che con passione si dedicano a qualche attività, sono particolarmente dotate per quel tipo di attività. Ecco, esistono in tutto il mondo e nascono anche in Italia. Io vorrei anche dire che abbiamo delle ottime università, il Politecnico di Milano ne ha dato parecchi di questi personaggi. Quello che amareggia è che molto spesso questi personaggi se ne vanno all'estero. Quindi e amareggia ancora di più che non tornino poi. E non tornano, questa è la grande, cioè una ricchezza immensa che noi diamo. Io ho avuto anche dei miei collaboratori che oggi come oggi lavorano all'estero. Ma direi non tanto quanto solo per la remunerazione diretta, perché trovano maggior possibilità, vuoi di sperimentare, vuoi di ricerca e via dicendo. Quindi noi perdiamo dei capitali enormi. Abbiamo speso, pagato tasse per questi ragazzi che studiano all'università e via dicendo. Quindi questo investimento noi cittadini comuni, diciamo, l'abbiamo pagato, e questo vanno a produrre reddito, posti di lavoro e fortune in altri paesi. Cioè questa, esiliare queste persone. Certo. Abbiamo avuto nel passato torme di contadini all'Unità d'Italia che se ne sono andate. Oggi esportiamo ingegneri, esportiamo aziende, esportiamo professori. Magari questo dopo averli formati, quindi aver speso, certo, per formarli. Certo, quindi... è una tristezza enorme. A me colpisce come tristezza. Potrei essere andato anch'io all'estero. Io ho avuto proposte dalla West Virginia, da vari, come gli Stati Uniti sono uno dei nostri clienti principali, di andare, anziché fare la fabbrica turata, di andarmene in West Virginia. È venuto il governatore della West Virginia, ma scusami, tu vieni qui, hai quasi metà del tuo fotorato, lo puoi fare tutto qui, oltretutto sei un cacciatore, qui è una zona fantastica per andare a caccia, vieni qui e investi qui da noi. È stato lo stesso periodo in cui altre ditte sono andate in West Virginia e hanno cominciato a lavorare 4-5 anni prima di noi. Questa è la realtà. Quindi non c'è stata solo una delocalizzazione in Cina, come si dice, per il basso costo del lavoro, ma no, anche... ma guardi che almeno per quanto riguarda il tuo settore, ma direi per molti altri, oggi il lavoro viene a incidere intorno al 25% del totale dei costi. Quando lei anche ha variato di un 10%, un 2,5%, soltanto i trasporti, non è la questione. Perlomeno non è la questione del tasso orario. È, certo, la questione di tutte le complicazioni che intervengono sulla legislazione del lavoro. 2.300 pagine. Ecco, voglio, ritornando a citare la sua lettera a un amico che lei ha fatto pubblicare sul Sole 24 Ore alcune settimane fa, proprio cita queste complicazioni. Come enormi. La burocrazia, il fatto che ci sono le leggi redatte in maniera confusa, ambigua, contorta, in cui è, tra l'altro si annida poi un fenomeno che lei cita anche in questa lettera, che è quello della corruzione. Assolutamente, cioè dove c'è chiarezza uno non può andare intorno agli argomenti per farsi capire, perché è o non è, quando la cosa è ambigua, è contorta, che ha bisogno poi di circolari illustrative, dove la chiave, ripeto, di volta di qualche funzionario, il cittadino rimane, beh, dice, insomma, cosa vuoi perché io possa andare avanti? Ecco, questo è il dramma del paese. Il dramma di un paese in cui lei dice appunto in questa lettera, in questi ultimi anni, in questi ultimi 20 anni, quando gli altri paesi progrediscono l'Italia progredisce meno, e quando gli altri paesi vanno meno bene l'Italia va male. Quello... è un dato di fatto, numerico. Quello che è avvenuto negli ultimi anni, la negli crisi. Ultimi 20 anni, la realtà è questa. Cioè, anche parlando con molte persone, anche politici, ma bisogna creare posti di lavoro, vi dico, ma fino a quando voi correte per tamponare gli effetti e non andate alle cause fondamentali, il paese non cambierà. Ecco, queste cause fondamentali però si possono individuare, le individuate si devono rimuovere, però molto spesso la logica con cui si vogliono rimuovere queste cause, pensiamo appunto alla legislazione, è quello di aggiungere altre leggi. Si sono state, si è contato negli ultimi anni, negli ultimi pare 2 legislature, 60 leggi per semplificare e 400 per complicare. Plurime legis corruptissima repubblica. Non lo dico io, ma l'hanno detto 2000 anni fa. Queste leggi non sono fatte, alla fine chi beneficia di rendite di posizione non vorrà mai leggi semplici e chiare, se no perde come minimo il potere psicologico, minimo, quando poi non c'è ben altro. Ecco, in questa prospettiva, allora, guardando poi alle cose concrete, lei cita appunto la burocrazia, e qui bisogna intervenire alla radice, togliendo, non tanto rendendo più efficiente la burocrazia, facendo meglio le cose che si facevano sempre. No, secondo me ha bisogno di una soluzione radicale. Io addirittura ho proposto di fare un corpus iuris, pronto a pagare qualche borsa di studio, per dire radicalmente facciamo una catarsi della nostra legislazione. Non se ne esce più. Perché se a redigere queste leggi sono sempre quelle 15-20 persone di cui non si conosce da chi sono nominate, per quale ragione scrivono leggi così complesse? Se non si va alla radice non cambierà nulla, sarà difficile. Mi fa venire in mente in questo momento lei una battuta dei Miserabili, dove c'è a un certo punto questo galeotto redento e il poliziotto che gli va dietro, discutono alla fine del romanzo, ma insomma cos'è per fare per migliorare? E uno dice la legge e quell'altro dice la coscienza. Ecco, sì, la coscienza è certamente un richiamo importante, però ecco, bisogna anche essere concreti. Lei mette anche 2 punti molto concreti, quello dell'energia e quello del credito, su cui l'Italia perde posizione rispetto agli altri. Quello del credito, ancora una volta, secondo me, è questione di deontologia professionale. Cioè, io dico, ritorniamo all'antico e sarà un progresso. Risparmio è l'italiano risparmiatore, raccolta e impieghi verso le attività produttive. Se fai questa raccolta per poi fare speculazione finanziaria che ha lasciato disastri, dolori per tutti, non è andato agli investimenti e si sono volatilizzati e non si sa bene dove. Ecco, questo è uno dei problemi che un imprenditore che opera appunto nella realtà economica si trova di fronte. Il rapporto delle banche è diventato più complicato negli ultimi anni. È diventato più complicato, ma direi anche cambiato la cultura. Io ricordo quando dicevano, ma se tu hai un'azienda e guadagni meno come azienda rispetto a quello che tu guadagneresti di più nella finanza, chiudi l'azienda e datti la finanza. Io sono sempre stato contrario a questo tipo. La ricchezza reale è quella che si produce, non è quella di carta. E quella di carta alla fine si è bruciata. È uno strumento, dovrebbe essere uno strumento. È uno strumento, in effetti, se vogliamo dire tra l'economia e la finanza, quale delle due, una è ancillare l'altra. Io sono dell'avviso che la finanza sia ancillare l'economia. Indubbiamente. Ecco, in questa prospettiva ci avviavo alla conclusione guardando all'ultimo tema, a 2 temi anzi che lei cita, quello dell'energia e quello dei trasporti. Sull'energia paghiamo sul fronte italiano delle scelte incompiute o delle scelte sbagliate? Certo, sul tema. Insomma, dico, avevamo il suo tempo, il tempo di Mattei, così pure, le Edison ancora private, via dicendo, eravamo autosufficienti come energia, come produttori di energia. Oggi l'Enel, dopo 30-40 anni, è diventato un commerciante di energia. Non è pensabile, non è stato in grado di produrre centrale per alimentare la produzione nazionale. Come minimo pagheremo l'ammortamento delle centrali di qualche altro paese, come minimo, ammesso che non ci sia poi un valore aggiunto. E in Italia, scrive ancora in questa lettera, quasi tutti camminiamo su strade intasate. Chi ci ascolta probabilmente ci ascolta dall'automobile, magari in coda nonostante l'ora, e quindi il costo del carburante, il costo dei peaggi autostradali sono tutti elementi che penalizzano, sono degli altri, cioè il trasporto, ma costa di meno da Amsterdam andare a New York che neanche, che ne so, da Roma andare a Genova. Molte aziende italiane del nord Italia usano più il porto di Rotterdam che non quello di Genova. Assolutamente. Qual è la ragione? Perché ci sono dei monopoli, perché ci sono degli accordi commerciali poco corretti, e quindi situazioni dove uno lucra quello che non dovrebbe lucrare. Comunque, ecco, fatta questa analisi, messi in luce questi problemi, rimane al fondo, da lei come amministratore delegato di un'azienda, l'ottimismo della volontà, la volontà di poter superare questi problemi, di poter andare avanti, di poter dare il suo contributo anche alla crescita di un'Italia. Innanzitutto, io questo paese lo amo, quindi siamo una famiglia che abbiamo avuto tutto sommato tre generazioni di volontari, quindi mi pare che questo possa indicare una certa scelta verso il proprio paese. Però dispiace, perché è una fonte di cultura, una fonte di conoscenza. Ma perché dobbiamo distruggere tutto questo? Perché il parassitismo morirà solo se riesce a far morire l'albero su cui a un certo punto vive. Ma però per questo bisogna un po' reagire. Reagire, perché io sono... non come corrente di opinione, le correnti di opinione sono fatte per i boccaloni. Io penso alle correnti di pensiero, che sono qualcosa di molto più nutrito. Ecco, su questo si può confrontare. Sull'opinione non ci si confronta, sul pensiero sì. E bisogna smuovere un po' le acque e avere fiducia che le cose possano cambiare. La ragione per cui ho pagato questa lettera. Grazie mille, grazie a Silvano Mantovani, amministratore delegato di Aerea S.P.A., autore di una lettera a un amico pubblicata nelle scorse settimane per mettere in luce i problemi italiani, ma e soprattutto per dare una mano a cercare di risolvere, di guardare la realtà, già conoscere i problemi, già fare un passo avanti per la loro soluzione, questo vogliamo crederlo. Grazie allora all'ingegner Mantovani, grazie anche a Fabio Cantadori in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.